E secondo brano di questa sera della suite stonata, abbiamo ottimizzato, come già vi avevo detto prima, pochi minuti fa, il collegamento con Flavia Lagia di nonsoloturisti.it, che come ogni sera ormai non ci aspetta lì da solo per il collegamento, ma ci porta sempre un ospite. Con chi sei questa sera, Flavio? Ciao Beppe, buonasera a tutti. Stasera sono con Enrico Ranzanici, il videomaker del team di questa tappa di 7000 miglia lontano. Ciao, buonasera a tutti. Enrico è la mia spina nel fianco, è quella vocetta che quando sono bello concentrato sulla guida, vedo i paesaggi scorrermi sotto le ruote, penso di potermi rilassare, a un certo punto dei meandri dei sedili posteriori fa "torna indietro un attimo" e a quel punto le gazzelle si nascondono, gli struzzi mettono la sella da testa sottoterra, leoni scappano spaventati, io che non ho vie di fuga sono costretto a diventare marionetta nelle sue mani e mi trascina in giro insomma per catturare le migliori inquadrature del viaggio che stiamo facendo. Da pochi giorni siamo arrivati in Namibia e sì. I paesaggi che si sono susseguiti sono stati sempre più spettacolari, ma Enrico non è mio compagno di viaggio soltanto per questa tappa, ho scoperto che siamo quasi vicini di casa, lui abita sulle bellissime sponde del lago di Garda, ma ve lo lascio conoscere direttamente dalla sua voce. Due parole su di te, Enrico. Beh, io sono un filmmaker, così si può riassumere un po' quello che faccio, nel senso che lavoro sia in modo indipendente, così come sto facendo in questo momento, cioè realizzo contenuti filmando e montando poi gli stessi, oppure regista quando ho una troupe al mio seguito e realizziamo documentari piuttosto che film per aziende o cortometraggi. O marionettista quando anziché la troupe si trova questa banda più o meno scalmanata e inadempiente di giornalisti autisti al suo seguito e con grande pazienza e determinazione e forza di buona volontà cerca di metterci ognuno al suo posto per organizzare i filmati che tra l'altro tutti quelli che vedete sul sito di 7000 miglia lontano, sulla pagina Facebook in questi giorni sono sua produzione, quindi già la sua opera è in circolazione, è in corso. Sì, una cosa curiosa rispetto a questo viaggio è che il ritmo è molto sostenuto, al punto che mi trovo a lavorare sui sedili posteriori della macchina mentre Flavio finge di schivare buche, ma in realtà non è possibile. Le becco tutte. Perché sono solo strade sterrate, bellissime se vogliamo a livello paesaggistico, ma dal punto di vista dell'impatto con l'asfalto, no, dell'asfalto, scusate, delle pietre, abbastanza pesante. La conta è aggiornata, Beppe, adesso siamo a 3 forature, una per me e 2 per Mafalda sotto la guida di Paolo Corti. Anche in questo caso, in questi ultimi due casi, siamo riusciti stranamente a rimetterci in moto e a quanto pare siamo ancora incapaci di arrivare fino alla meta, ma la strada diventa sempre più accidentata. Il primo cambio gomme è durato una ventina di minuti per il cambio di una sola gomma, con il tentativo di rialzare la macchina con due crick addirittura, un disastro. Al secondo abbiamo forato tutti e due insieme, due gomme posteriori di due veicoli, e il cambio è stato fatto in 10 minuti per due gomme, quindi stiamo migliorando anche in quello. È onore di Enrico, in tutti e tre i casi ha messo la mia videocamera da parte, anziché fare da regista come avrebbe potuto, è venuto a darci una mano, altrimenti col cavolo che ripartivamo anche stavolta. Vabbè, ogni tanto si può fare, siamo in avventura. No, Enrico, io guardo dei video, ho visto il primo, quello della partenza, dove eravate tutti con lo sfondo dell'oceano, immagino, sulle sdraio, ad uno vi alzavate, prendevate posto nelle auto e poi partivate. Quello è fighissimo, è bellissimo secondo me quel video. È stato l'ultimo momento comodo, è stato quel momento contemplativo sull'oceano, da lì in poi è una corsa piacevole perché comunque ci sono incontri, non si sa mai dove si finisce. Stamattina per esempio ci siamo svegliati alle 5 nella zona dalle parti delle prime dune rosse del deserto del Namib, quindi siamo nella riserva naturale del Namib. Esatto, ci siamo svegliati alle 5 per poter essere sulle dune verso le 6:30, quindi all'alba, ed è stato fantastico, nel senso che siamo arrivati proprio mentre iniziava ad albeggiare, mi sono ritrovato da solo in cima alla duna perché gli altri hanno preferito osservare l'alba dalla base, Dopodiché, riscendendo, ho visto una sagoma sdraiata sulla sabbia. Non avevo ben capito, ma era il nostro Flavio che prendeva un po' di respiro. Sì, perché questi poi se la dormono in macchina mentre io guido, e oggi sono tutto crollato. Ma per chi non avesse mai visto questi suoi occhi, bisogna ricordare che le dune di sabbia di questi deserti, in particolare del deserto del Namib, nel nostro caso non sono dei banchettini di sabbia, ma sono dei colossi che arrivano fino a 12-15 metri di sabbia finissima che si scioglie quasi sotto i piedi. Scalarle è un'impresa neanche tanto da ridere. Noi ovviamente siamo atleti più o meno quanto siamo astrofisici, e quindi la fatica si è sentita, però con buona volontà e pazienza ci siamo issati anche su questa meraviglia naturale. Wow, fantastico. Ragazzi, se siete un attimo pazienti, abbiamo solo 2 minuti di pubblicità e ritorniamo subito in diretta, ok? Va bene, vi aspettiamo. Le mani, ragazzi, divertitevi. 20 e 16 minuti in Italia, e in Namibia, Flavio, che ore sono? In Namibia siamo un'ora in avanti, quindi sono le 9 passate. Però di sera. Sono riuscito, se ti ricordi, ormai non ti chiedo più via Facebook che ore sono in Italia, quindi sto cominciando a prenderci un po' il caldo anche di questi orari. Bravissimo, ma ricordiamo che questa sera non sei solo, ma con te, l'abbiamo detto in apertura, ma l'abbiamo pure sentito, c'è Enrico. Enrico Lanzanici, regista, videomaker, incubo di tutti gli autisti di 7000 miglia lontano, e con lui abbiamo fatto, l'ultima volta ci siamo sentiti da Lüderitz, sempre sulla costa della Namibia. Adesso abbiamo fatto questo attraversata molto molto scenica, molto vincente nel deserto del Namibia, e siamo finiti a Walvis Bay, che è sempre una cittadina sulla costa, da cui abbiamo trovato, grazie al cielo, questo bellissimo rifugio da cui vi stiamo parlando. Mm-hmm. Queste cose chiederei a Enrico, lui che ha un professionista dell'immagine, come è andata, come quali sono le sue impressioni sulle riprese fatte finora, il paesaggio della Namibia, per quanto desertico, quindi comporta sempre una certa continuità paesaggistica, ma al tempo stesso al suo interno forme e colori variano in continuazione. Noi giriamo una curva, ci troviamo di fronte al deserto di roccia, ne giriamo un'altra, abbiamo le enormi dune. Tu te l'aspettavi così la Namibia, te l'aspettavi così il deserto? No, assolutamente, è un continuo stupirsi chilometro dopo chilometro. Dicevo prima che stamattina siamo partiti dal deserto del Namib, quindi dune di anche 300 metri di sabbia rossa, e oggi in particolare lavoravo sul sedile posteriore della macchina, quindi perdevo magari un quarto d'ora, 20 minuti di visione fuori dai finestrini. Quando riguardavo fuori trovavo tutto cambiato. Siamo passati in un canyon di rocce, siamo passati attraverso una spianata di sabbia gialla, non più rossa. Siamo passati attraverso rocce, erano argentate, perché lì sono sceso anche a fare una bella ripresa delle due mezzi che attraversavano queste curve. Mm-hmm. La temperatura probabilmente era intorno ai 40 gradi e loro se ne sono andati per un po' di chilometri. Insomma, è una situazione sempre di improvvisazione. Infatti anche per me, che comunque di documentari ne ho fatti nella vita, sta mettendomi molto alla prova, devo dire. Ma... nel senso che non sai mai cosa ti aspetta un secondo dopo, potresti essere completamente impreparato e ogni momento è buono per essere invece pronto a catturare qualcosa di interessante. Ma ho visto che lo stesso vale perché... no, dimmi scusa. No, vai pure, lo stesso vale? No, per gli accadimenti anche all'interno del gruppo, nel senso che da un momento all'altro può essere che uno dei fotografi che è con noi si ferma, si blocca e salta dalla macchina, e quindi chissà cosa succederà. Ogni volta è improvvisazione totale. Poi ne diciamo quattro anche sui fotografi, una delle prossime puntate. Oggi siamo dovuti raccoglierne uno che ha pensato bene di lasciare la strada principale per andarsi a infilare nel deserto in sotto le dune con clamore, stupore e agitazione delle guide turistiche, che secondo loro sembrava che si fosse votato al suicidio. Comunque sta bene anche lui. No, ho visto che comunque... ho letto sulla pagina vostra di 7000 miglia lontano, Flavio, che oggi avete mangiato bene, a quanto pare. Il cibo per fortuna al momento non manca, siamo riusciti a raccogliere sempre delle esperienze interessanti anche da quel punto di vista. 7000 miglia lontano, ricordo ancora una volta, culminerà all'Expo di Milano quest'anno, tra pochi mesi, e ovviamente anche per noi il food, le tradizioni culinarie e le esperienze gastronomiche dei paesi che visitiamo diventano una parte fondamentale del nostro viaggio, della nostra esperienza. Quello che hai visto su Facebook di sera qualche giorno fa, ed è stato veramente un incontro incredibile, questa piccola baietta assolutamente sperduta, remotissima, ci ha preparato chili e chili di pesce, ho mangiato delle aragoste buonissime, serviti e riveriti in un clima molto rurale, ma anche molto, molto piacevole, molto, molto accogliente. Cerchiamo sempre di sperimentare cose nuove. Ogni tanto, come capita oggi, se proprio siamo costretti ad arrangiarci, non manca neanche il momento pasta, cioè lo stereotipo proprio dell'italianità in viaggio, con bricola di italiani a tavola che aprono la bottiglia di vino e mangiano la pasta che sono riusciti a rimediare con l'ingrediente a disposizione. Io penso che la vera pasta si mangia solo in Italia, Flavio, mi dispiace, non so se la siete portate nei cartoni lì in Namibia, però la vera pasta... l'ho cucinata, confermo. È ingestibile nella cottura, nel pomodoro, che è diverso, insomma. Vabbè, è comunque gioia generale, perché dopo 6 giorni di carni varie, carne buonissima, carni di animali selvatici belle decise come gusto, avevamo voglia anche noi di lasciarci un po' andare alla carboidrato italiano. Beh, ragazzi, se non avete altro da aggiungere, io vi ringrazio e vi saluto. Beppe, ricordo solamente che anche questa tappa, come tutte le 7 tappe di 7000 miglia lontane, è legata a un progetto, a una causa benefica. In questo caso chi ci segue, chi si è appassionato alla nostra avventura, può andare sul sito di 7000miglialontano.com e acquistare le miglia, e con l'offerta raccolta, con i soldi raccolti, questi verranno destinati al CESVI, che in Africa segue diversi progetti, in particolare rivolti alla lotta contro la fame, contro l'abbandono dei minori, contro l'AIDS, insomma un'associazione che veramente cura, o meglio tenta di dare risposta a molte situazioni di emergenza in questo bellissimo ma sofferto continente africano. Ah, ok. Allora, io ringrazio Enrico Ranzanici, videomaker di 7000 miglia lontano, ringrazio Flavio Alagia di nonsoloturisti.it, anche lui impegnato in 7000 miglia lontani come driver, quindi dai Flavio, forza, mi raccomando, non ti addormentare alla guida, e ci sentiamo martedì prossimo, connessione permettendo. Grazie Dante. Grazie Beppe, ciao a tutti, buona serata. Ciao. Radio